Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. C'è l'atmosfera dell'Olimpico un po' strana e particolare oggi per la chiusura della parte centrale della curva sud, c'è comunque un buon colpo d'occhio. Attenzione, fallo di mano, calcio di rigore. Parte Totti che spiazza Sportiello e porta la Roma in vantaggio. Emanuelson finisce giù, protestano i giocatori dell'Atalanta, calcio di rigore. Va Denis, perfetto anche questo rigore, 1-1. La Roma in attacco, può essere l'ultima opportunità. Non c'è invece l'ultima opportunità, finisce 1-1, ancora un pareggio. Il 13° in stagione per la Roma, che aggancia la Lazio al secondo posto, ma spreca una grande chance di riprendersi in solitaria la seconda posizione. L'Atalanta torna a casa con un punto preziosissimo nella corsa alla salvezza. Riassunto sonoro del pomeriggio dell'Olimpico, quello almeno dentro lo stadio, poi c'è il resto che è successo fuori, di cui parleremo, vi racconteremo degli striscioni, dei fotomontaggi. 800 24 00 24, Carlo Genta qui con me, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. C'è anche la Formula 1 appena partita dal Bahrain. Che bello, gran premio nel deserto, comanda Hamilton, grande partenza di Raikkonen che è terzo, quindi ha guadagnato una posizione, secondo è Vettel. La brutta notizia è che Hamilton sta andando davvero forte, sta un po' prendendo il largo. Quarta è l'altra Mercedes, poi Bottas e poi Ricciardo e poi gli altri. Insomma, i soliti trenini un po', esatto, mischiati. Si è giocato a calcio questo pomeriggio, Carlo? Gli diamo i risultati? Boh, sì. Se non li hanno sentiti, li diamo. Roma-Atalanta 1-1, Palermo-Genoa 2-1, Chievo-Udinese 1-1, Empoli-Parma 2-2. Alle 12.30 il pareggio 1-1 tra Sassuolo-Torino, tra poco meno di un'ora c'è Cagliari-Napoli, poi questa sera il grande derby di Milano che comincia ad avere un senso, Carlo, perché quelli che corrono per l'Europa League hanno il braccino corto. Sì, hanno il braccio corto, però grande mi sembra tanto, mentre c'è, cioè, così, visto che siamo in cronaca, c'è Raikkonen che viene scavalcato in questo momento da Rosberg. Comunque grande è tanto, perché raccontavamo proprio venerdì che è il derby più depresso dagli anni 40-50, mi dicevi tu, no? Come posizione in classifica. È chiaro che se davanti continuano ad andare così piano ci potrebbe essere almeno il teorico spazio per una rimonta. Come abbiamo sentito, a Roma si è giocato regolarmente, anche senza gli ultra si può giocare a calcio. 800 24 00 24, mi interessa anche sapere da voi che cosa ne pensate. In questa domenica che chiude, speriamo, un fine settimana un po' così, dal punto di vista degli ultra, dell'ordine pubblico, delle violenze da stadio, abbiamo visto di tutto a Varese, a Cagliari, ma non ci stupiamo di nulla, purtroppo. No, se non della frequenza con cui adesso si verificano questi episodi, perché mi sembra davvero un'epidemia, cioè ne vediamo un paio a settimana e mi sembra davvero tanta roba. Poi ne parliamo, però vale la pena sottolineare che fuori dall'Olimpico, io uso le parole di Pallotta, i fucking idiots non sono 4-5, mi sembra fossero 400-500, no? Sì, quindi, non i 4-5 che tutte le volte raccontiamo, esatto, essere il vero problema, i fucking idiots è molto semplice, è una scelta di campo, o stai da una parte o stai dall'altra. Quelli che oggi stavano dietro lo striscione Pallotta-Maiali fanno parte di quella schiera. Sì, la Roma anche senza ultra continua ad andare un po' così, c'è l'aggancio alla Lazio, almeno ma non dovrà andare sotto la curva con la, sì, con ma, la testa, ma è un aggancio che sa un po' di crisi. 1-1 contro l'Atalanta, partita brutta, partita che la Roma non ha meritato di vincere. No, assolutamente non ha meritato di vincere, è stata la solita Roma versione interna. La Lazio un po' deludente ieri sera a Torino, ma anche di questo suppongo parleremo tra poco, però non credo ci sia, in questo momento non c'è gara per il secondo posto, cioè tolta la partita di ieri sera della Lazio, marcia troppo forte l'altra squadra di Roma, quindi. E la Roma è alle prese anche con grane interne. Ti ripeto, oggi l'unica cosa positiva per la Roma è che non è dovuta andare ad inginocchiarsi davanti alla curva, perché la curva era vuota, sì. Se no sarebbe successo anche oggi. Sì, non c'è dubbio. 800 24 00 24, riusciamo a prendere l'inizio di Edi Reia, l'uomo che ha portato via un punto dall'Olimpico e avvicina l'Atalanta alla salvezza. Ha detto in settimana: mi sono arrivati tanti sms dagli amici della Lazio, per favore ferma la Roma, detto fatto. Reia, punto per noi è particolarmente salutare in questo momento del campionato. Peraltro Reyes senza particolare sofferenza, nel senso che per carità la Roma ha individualità, giocatori che in uno contro uno provavano a saltare i loro avversari, però a livello collettivo non avete avuto grandi momenti di sofferenza nel controllo di questo pareggio? Vabbè, un po' di sofferenza, soprattutto conoscendo le qualità dei giocatori della Roma, insomma c'è stato, però dal punto di vista individuale, mentre noi abbiamo chiuso molto bene tutti gli spazi, siamo stati molto ordinati, e poi pensavo in qualcosa in più di qualche ripartenza, soprattutto nel secondo tempo, però era una giornata particolarmente calda, e dal punto di vista fisico eravamo quasi arrivati a 10 minuti della fine, e anche la Roma poi non è che ne avesse più tanto, no? 10 minuti della fine, quando ci sono giornate di questo genere particolarmente calde, poi vengono meno, avevo solo paura sui calci d'angoli, su punizioni laterali e basta, poi su palla a terra abbiamo sofferto pochissimo. Sì, insomma Atalanta che ha sofferto il giusto. Fammi salutare Fabrizio Bocca, collega di Repubblica, ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Ciao. Noi festeggiamo perché si gioca anche senza ultra, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione a Roma. Ma insomma si può fare, insomma diciamo che quella di una curva senza ultra era una buona notizia. Se riuscisse a fare anche per qualche altra domenica, ma credo che gli ultra torneranno presto al loro posto, insomma. E quindi non so quanto il problema sia risolto, ecco. Sì, intanto abbiamo avuto la conferma che non sono 4-5, perché fuori dall'Olimpico erano, dice l'Ansa, 500, insomma, erano diverse centinaia dietro lo striscione pallotta maiale. No, certo, ma sono tanti, poi sai, sono tanti quelli, diciamo così, operativi, tanti quelli che comunque li appoggiano e tanti quelli che non fanno niente quando questi urlano, gridano o fanno qualcosa o chiamano la squadra alla pubblica gogna, per cui insomma il movimento ultra diciamo che è ben radicato, insomma. E poi non solo nella Roma, ma in tutte le squadre. No, ovviamente noi non facciamo un discorso solo legato alla Roma, anche se io sono molto curioso, e se restate qui fra qualche minuto ve lo facciamo sentire, di sapere se oggi Garcia, dopo 2 settimane, avrà deciso di dire qualcosa sulla questione degli striscioni dei cori, perché fin qui ci ha fatto la lezioncina sulla giustizia sportiva, singola, di gruppo, pallotta è una benedizione, poi un'altra volta ha detto che lui parla solo di calcio. Io non lo so, ma trovo tutto molto deludente, no? Non dirà niente neanche oggi. Comunque il fatto è che ha ragione Fabrizio, non è un fenomeno solo sì, però romano. Sottolineiamolo, anche quelli che sì. Non dicono nulla. Beh, ma anche, bisogna scusa, metterli i nomi e i cognomi. Ma anche Reia, che hai citato prima, ha ricevuto diversi sms dai tifosi della Lazio, da amici laziali, però ha detto questo boccia non so chi sia, che era quello che arringava la squadra dal balcone, ricordandomi qualcuno, con intorno tutta la gente che sghignazzava, i giocatori a capochino appecoronati davanti al palcoscenico del Boccia, che Reia però non sa chi sia. Fabrizio, dirà qualcosa oggi Garcia? No, deludente. Ma sai, Garcia è uomo di mondo, è furbo, sta sempre attento a non mettersi troppo nei guai, ma insomma credo che oggi più che altro dovrà spiegare perché la Roma non riesce in casa, non riesce a vincere le partite, ecco, insomma, perché è una squadra che ha grandi difficoltà a fare gol, credo che lo incastreranno più che altro su delle domande, diciamo, di tipo tecnico, ecco. Però insomma anche su quello vediamo se si espone. Noi aspettiamo fiduciosi. È uno che sa stare al mondo, è furbo, quindi 800 24 00 24, chiedo un minuto a tutti, c'è il traffico, poi torniamo. Un cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri. Allora adesso faccio un tweet: @ a seconda dei casi, pallotta # Palazzinaro # Sticazzi, arrivate Cesenzi, arrivai, Tutti convocati. Classifica che dice: Juventus 73, Lazio Roma 58, Napoli e Samp 50, Fiorentina 49, ma gioca domani sera, poi c'è il Genoa quota 44 con il Torino, poi Milan 42, Inter 41. Perché di questo passo, Fabrizio Bocca, collega di Repubblica, c'è il rischio anche che il derby di questa sera abbia un senso, un significato, anche al di fuori delle tangenziali di Milano? Tu dici per l'Europa League, ma insomma, io posso ipotizzare che il Milan vinca questa sera, sale a 45, è pienamente in corsa. Può farcela, però deve mantenere il trend almeno delle ultime due partite e non essere il Milan di sole tre o quattro partite fa, insomma. Poi però insomma ce ne ha sempre 4, 5 o 6 davanti almeno, insomma 7, 8 davanti, insomma, quindi sempre abbastanza complicato, però insomma è una squadra che si sta riprendendo, tant'è vero che vedo si comincia anche a ipotizzare, a fare l'ipotesi di un Inzaghi che possa rimanere sulla panchina. Mi sembra abbastanza folle. Del Milan c'è una buona notizia o meno, ma insomma non credo, mi sembra abbastanza folle, perché comunque vada, il campionato del Milan è stato deludente e io continuo a pensare che non raggiungerà l'Europa League. Dicevamo prima, Fabrizio, il derby più depresso degli ultimi 60 anni, forse di più, e quindi io non mi aspetto un granché, così come non mi aspetto che il Milan possa agganciare il treno soprattutto di Napoli e Fiorentina. La Sampdoria vediamo, il Genoa ha iniziato credo la stagione delle beneficiate, oggi a Palermo ha giocato una partita inutile, come penso sarà da qui alla fine per il Genoa. Mi sembra già tutto previsto in questo campionato, si tratta di capire e di chi arriverà secondo, di concretizzare il secondo posto della Lazio, che al di là della partita un po' così di ieri sera mi sembra altra cosa rispetto alla Roma. La rimonta del Napoli non credo, troppi punti. Ti è deluso la Lazio ieri sera o dobbiamo abituarci che in questo momento il divario tra la Juve e le altre è un divario incolmabile? Beh, guarda, la Lazio di ieri sera è stata, sì, insomma, è stata un po' deludente, questo sicuramente, però insomma, non vedo che cosa gli si possa rimproverare, visto che ha fatto nelle ultime settimane, negli ultimi due mesi è stata la migliore squadra in Italia, forse addirittura per qualche verso addirittura un po' superiore alla Juventus. Poi la Juventus ieri ha imposto la sua legge e va bene così. Ma cosa è mancato alla Lazio? Io non riesco a capire se sia un problema di assenze che ieri c'erano ed erano anche importanti, soprattutto in difesa, se sia il problema improvvisamente di aver sentito la pressione, non tanto perché ci si andava a giocare un'ipotetica riapertura della lotta a scudetto, quanto perché è stata la prima partita con il muso davanti a quello della Roma, problema di personalità, di assenze, cosa? Guarda, le assenze non lo so, perché la Lazio è una squadra che ha dato anche dimostrazione di poter fare a meno di qualche giocatore, o quantomeno il miglior giocatore della Lazio negli ultimi tre mesi è stato sicuramente Felipe Anderson, però non è che ha segnato soltanto o ha fatto gol Felipe Anderson, ma hanno fatto gol anche altri giocatori, quindi è stato una squadra. Pioli le ha dato un ottimo equilibrio, le ha dato molto molto carattere, capacità. Ieri secondo me la Juventus aveva semplicemente più fame, insomma non è che per una partita si possa poi pensare che il fenomeno Lazio si sia scoppiato. Però un bel complimento dire che la Juve ha più fame in mezzo a due quarti di finale con il Monaco, con uno scudetto di fatto vinto. La Juventus ha trasformato a Parma. Due sconfitte consecutive della Juventus. Guarda, la Juventus ha trasformato, come ha fatto come il Bayern in Germania, come Reale Barcellona in Spagna, Atletico Madrid permettendo, come Paris Saint Germain, ha trasformato questo campionato in uno stagno in cui è corazzata e dominatrice assoluta, quindi è un'altra cosa rispetto a tutte le altre competitors. Assolutamente sì. E questo è un grande merito. Questo è un grande merito. Il tema è che temo non si veda all'orizzonte qualcuno in grado di, non dico di superarla, ma di avvicinarsi, di colmare il gap. Questo è un campionato che ha perso all'improvviso le due milanesi, per cui è chiaro, all'improvviso, poi nemmeno tanto all'improvviso. Non le troverà neanche più per un pezzo. Ormai cominciano a mancare gli obiettivi. Ma il campionato italiano che perde le due milanesi, è chiaro che poi fa fatica a trovare i competitor, come dici tu, per la Juventus, no? La Roma è venuta a mancare, il Napoli ha un allenatore che pensa più che altro all'Europa League, perché sa che lì può vincere più che in campionato, e la Lazio nemmeno se l'aspettava tutto sommato di stare lì, quindi insomma si va un po' avanti così. Secondo me è la mancanza di Milano che determina un po' Coppa. Sì, sì, assolutamente. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio, grazie. Grazie a voi, ciao, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie Fabrizio Bocca, redazione di Repubblica, 800240024, rapido aggiornamento Formula 1, poi sentiamo Gasperini. Sì, si è formato trenino davanti, quello solito della Mercedes, perché Rosberg ha superato Vettel, che ha avuto un errore in una curva, è andato un po' largo. Rosberg è comunque nettamente più veloce, adesso sta andando via anche lui, credo non ci sia gara. Ho l'impressione che Ferrari non ha il passo gara delle prime due corse, ma ha già 8 secondi di distacco Vettel da un Hamilton irraggiungibile, e poi c'è Raikkonen quarto. Sentiamo Gasperini, microfoni di Sky Sport. Situazioni con azioni simili a questa, non siamo stati bravi nella rifinitura, nella chiusura, sì. E quindi è andata così. Poi nel finale abbiamo aggiunto attaccanti, abbiamo avuto secondo tempo veramente un predominio importante, rischiando anche qualcosa in contropiede, perché il Palermo, soprattutto Dybala, è un giocatore che tiene impegnati anche più giocatori di difesa. I due gol sono molto opera sua, nonostante fosse circondato da avversari. È un peccato, perché io non è che mi aspettavo chissà che cosa, perché questa era una partita dove, come ho detto, avevamo tanta assenza la terza partita, però per come era la gara poi in campo un pochino l'abbiamo sciupata anche noi. E questo è il presente. E questo è Gasperini deluso. Secondo me ha ragione. Genoa, una partita vinta nelle ultime sei, ha fatto 5 punti. Sampdoria 2 punti nelle ultime 3. Torino 2 pareggi di fila. E poi adesso c'è il derby. Poi la trasferta di Palermo. È così. Credo che stanno facendo di tutto per riportare almeno una delle milanesi a potersi giocare l'accesso alla prossima Europa League. Genoa ha chiaramente mollato, no? Cioè non ha obiettivi, non ha particolari ambizioni. Forse non interessa neanche l'Europa League, al di là delle dichiarazioni di intenti. Ha fatto uno splendido campionato, ma non credo che Genoa e Torino, che pure stanno ancora davanti a Milan e Inter, siano due avversarie. La Sampdoria sì, ma è molto lontana, ha 50 punti contro i 42 del Milan e i 41 dell'Inter, mi sembrano tanti. Sì, se si attacca al sesto posto. Oh, si è giocato anche a Varese oggi, Varese-Avellino 1-1. Ieri non si è giocato, i fatti insomma li avete letti oggi sui giornali. Caro, ti faccio sentire il presidente del Varese, sì, Cassarà. Che secondo me ieri, al di là che è pittoresco e parla di Genoa, ha fatto un discorso che sottoscrivo. Cassarà: sono l'espressione non corretta della massima demenzialità delle persone, sì, la mancanza del genoma, ecco, dell'intelligenza. Non sto scherzando, così lo traduciamo, genoma è intelligenza, la mancanza di intelligenza. E poi Cassarà ha detto anche un'altra cosa che io sottoscrivo, cioè che se noi tolleriamo queste cose a Varese ovunque, un po' di colpa ce l'abbiamo tutti. Ci metto la faccia io, non per quanto, per come, anche davanti alla bara, perché io sono stanco, e adesso occorre, ma per tutti, la massima obiettività, perché tutti hanno concorso a questa cosa, tutti. Tutti chi? Tutti, notizie storte, bare, bare corte, bare lunghe, e qui riprendo il giochino. Ha visto qualcuno quando dicevo prima di gridare al morto, bisogna avere il morto, ha sbagliato la lunghezza della bara. Questo Cassarà ieri, io sottoscrivo, al di là delle bare. Mamma mia, che brividi, Giovanni. E di tutto. Ma che brividi. Però insomma, ogni tanto bisogna anche fare autocritica a tutti. 800240024, stiamo aspettando Garcia, poi parliamo della Juve, ci fermiamo. Tutti convocati. È quella di cui tutti abbiamo parlato, che sono partite che Garcia ai microfoni di Sky delusissimo. Abbiamo giocato male, non meritavamo di vincere, non ha funzionato nulla, preferisco tenere le parole per i miei giocatori domani. Questa è la sintesi: abbiamo giocato male noi, ha giocato male l'Atalanta, è andato male l'arbitro, ha detto ancora Garcia. Meglio la ripresa, ma non abbastanza per tenerci il secondo posto. Sentiamolo ancora Garcia ai microfoni di Sky. Come mai secondo lei in queste ultime due gare, proprio una situazione tatticamente favorevole, vi siete fatti recuperare? Sul piano difensivo stiamo bene dall'inizio della stagione, anche se abbiamo cambiato tutta la difesa, siamo seconda difesa, vuol dire che la squadra lavora bene sul piano difensivo. Manca il fatto di offensivamente fare più gioco, cose che abbiamo fatto tanto a Torino e anche nelle ultime gare. Oggi non me lo spiego l'atteggiamento della squadra, sicuro e lo dico, mai dico queste cose, ma questa sera avevamo troppi assenti e allora la qualità della nostra squadra era meno bene, semplicemente. Quindi un problema di assenti, questo dice Rudy Garcia, 800240024, non so cosa le pensate voi. A me sembra un Garcia che stia davvero facendo fatica a trovare il bandolo della matassa. Si sente il rumore delle unghie sugli specchi, dai, cioè anche non puoi dire troppi assenti. L'Atalanta pur con i presenti ha messo in scacco la Roma come hanno fatto tutte le altre squadre. Non è questione della partita di oggi, è questione di una annata storta, per cui ci sono nomi, cognomi responsabili sportivi, naturalmente. Sì, Roma che continua a non segnare, oggi ha fatto gol su calcio di rigore, nono attacco, lo abbiamo sentito, di tutta la Serie A, e per la qualità che ha davanti la Roma sono risultati non accettabili. Sì, per la qualità che ha davanti la Roma è una squadra troppo atipica e sta pagando la sua tipicità, cioè sta pagando il pedaggio comunque alla carriera, al peso sportivo, carismatico e politico, tra virgolette, anche in questo caso, sto parlando sempre di sport, di Totti. Sta pagando i turbe, che è un pacco da 30 o 31 milioni che qualcuno le ha rifilato, che si sono portati a casa, anche oggi inesistenti turbe. Sta pagando il tributo al mercato, al fatto di non è sorprendente che una squadra che non ha attaccanti e che gioca faccia fatica a fare gol. Non è così sorprendente, no? Sì, parabola di turbe che secondo me deve suonare anche come campanello d'allarme a chi oggi cerca Dybala. Anche la Juventus, così apriamo il discorso su quello che è successo ieri sera, ma non tanto sullo scudetto, che mi sembra, Carlo, fosse oramai semplicemente questione di aritmetica, e adesso vedremo quando la Juventus lo vincerà, 29 aprile, 2 maggio, magari qualche giorno dopo. Ma il grande tema di ieri: Tevez sì o Tevez no? Io conosco una gallina, è un club dell'Argentina che ieri per la Mercosur fu eliminato. Tevez! Io conosco una gallina, es un club de la Argentina, que ayer por la Mercosur fue eliminada. Tevez, Tevez, Carlitos, Tevez, primo pallone, subito in porta, 1-0. Sabemos de la voluntad que tiene Carlos de regresar al país, sé que quiere jugar en Boca Juniors, primero tiene que él resolver la parte contractual que tiene con la Juventus, después podremos decir que estamos cerca de que Carlos esté nuevamente en el club. Tiene problema en defensa, adelante es una ofensa, y en el medio ni Berizzo ni Ensenar. El presidente del Boca, secondo me, ha fatto delle dichiarazioni molto azzardate. Per due motivi: primo, perché deve rispettare anche quelli che sono le volontà della società che detiene i diritti sportivi, e poi deve approfondire anche quello che è appunto l'atteggiamento e la volontà del calciatore. In questo caso Tevez non ha mai manifestato noi la volontà, la voglia di andarsene. La gallina fue volente, perdió un torneo, perdió dos y perdió tres. Il fatto di sentire un po' di nostalgia di casa e soprattutto mancanza un po' di essere lontano dagli amici, dai parenti, credo che sia una cosa normale. La sentiamo magari ogni tanto anche noi, la sento anche io ogni tanto quando sono lontano a Livorno e sono solamente a 3 ore. Quindi non è ancora deciso cosa fare nel futuro? No, io sono pensando adesso nella Juve, stiamo giocando una partita troppo importante per pensare al mio futuro, io non posso pensare al mio futuro adesso, no? Quindi deciderai a fine stagione? Io deciderò quando sia il momento giusto. La gallina fue boleta, come nel monumento. con tutto il rispetto per la nostalgia di Massimiliano Allegri che rimpiange Livorno, abbiamo convocato uno che le cose della Juventus le sa tutte, Guido Vaciago, collega di Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao Guido. Buongiorno, ciao a tutti. Mandate poi l'MP3 della canzone della gallina. La gallina turuleca, che è una canzone di sfottò. Guarda, l'ha trovata Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Questa mattina mi ha svegliato 8:30, ho trovato una cosa bellissima. La canzone la gallina. Senti, io ti dico come la penso, che se Tevez vuole davvero restare alla Juve, ieri alla 100ª intervista rispondeva: resto alla Juventus, punto. Ma infatti è così, volevo dire che è di tutto il montaggio che devo dire ha riassunto in maniera perfetta la situazione. C'era una dichiarazione che un po' strideva, che era quella di Beppe Marotta, che le ha giustamente cantate al presidente del Boca Junior, però non ci ha chiarito fino in fondo la posizione di Tevez, perché lui ha detto: a noi non risulta, non ci ha chiesto, però non vi ha chiesto, ma però nello stesso tempo a precisa domanda lui non ha risposto. Quindi io credo che c'è anche Tevez che dice: deciderò quando sarà il momento, non dice sto lì o aspetto la fine del contratto, deciderò quando sarà il momento. Secondo me c'è la seria, concreta possibilità che Tevez voglia andarsene, e se Tevez vuole andarsene se ne va, perché nessuno alla Juve è così matto da trattenere un giocatore come Tevez, col carattere di Tevez, contro la sua volontà. Quindi purtroppo qua c'è soltanto una persona che deciderà di questa vicenda, non è Marotta, non è Angelici il presidente del Boca Junior, ma è solo ed esclusivamente Carlitos Tevez, e secondo me Tevez è molto tentato dal tornare in Argentina a fine stagione, come ha sempre detto. Sì, ma il problema è che lui ha sempre detto che era tentato di andarci dopo i 3 anni alla fine del contratto, e questo è un conto. Ma guarda, io ti posso dire, cronologicamente ci sono una serie di interviste, ho avuto anche la fortuna di farla io, a gennaio faccio un'intervista, gli faccio la domanda e lui mi risponde arrabbiato, perché io gli ho posto il problema dicendo: perché mi fai questa domanda? Io sono un uomo con una sola parola, avevo detto 2016 sarà, aveva anche un po' dei tinti, mi dice, insomma, capito, se ti guarda negli occhi inizia. E quindi io esco da quell'intervista convinto, la mano sul fuoco, che lui rimaneva nel 2016. Passa qualche mese, mi sembra la scorsa settimana, un'altra intervista molto bella su Repubblica, in cui a precisa domanda del collega Emanuele Gamba lui risponde: non lo so, vediamo, non è il momento di parlarne. È già diverso. È successo? È tutto chiaro, ma questo per rispondere anche indirettamente ai tanti tifosi della Juventus che accusano i giornalisti. Adesso io non voglio fare una difesa di casta, ci accusano di voler destabilizzare la Juventus nel momento decisivo della stagione. Ragazzi, noi facciamo 1+1, poi magari a fine stagione Tevez resta perché non si trovano, perché lui decide, ma anche perché qualcuno qualche soldino dovrà darlo alla Juve, perché la Juve non fa beneficenza, non va via a parametro zero Tevez. Come questo, potrebbe fare l'anno prossimo? Questo se lo devono togliere. Aspettate, vi fermo un secondo, c'è Stefano Filucchi da Cagliari, ve lo voglio far sentire per la questione ultra. Di villaggi per i bambini, faremo uno stadio e sarà costruito uno stadio nei prossimi anni, a partire dal prossimo anno, apposta, studiato per le famiglie e per tutti, per tutti i settori dello stadio, purché tutti rispettino le regole. I fatti che sono successi sono gravi, l'hanno detto tutti, non possiamo che sottolinearlo. Non penso che sia un problema solo da circoscrivere territorialmente, è il problema di tutti, e nemmeno temporalmente, nel senso che non ce ne dobbiamo dimenticare fra 2 giorni. È un problema che va risolto a livello nazionale, che riguarda molte città, come avete visto. Qui è successo un fatto sicuramente grave, bisogna rammentare, ricordare, e che non si concilia assolutamente con la vita di una squadra, di una passione sportiva. Comunque la questione è aspettiamo che poi si facciano anche i nomi e i cognomi, perché le possibilità ci sono. Poi vi facciamo sentire anche Garcia, che ha parlato della curva chiusa. No, però tornando a Tevez, sai Guido cosa mi ricorda? Mi ricorda l'ultimo Mourinho nei 2 mesi del triplete, che era inseguito da queste domande sul suo futuro. Il triplete si può fare anche inseguiti dai giornalisti. Ma certo, no, lo diciamo agli amici juventini. Ma io credo che Tevez, anzi, in cuor suo Tevez, se per caso avesse deciso di andare via a fine stagione, ci metterà il triplo della voglia di vincere la Coppa dei Campioni qualora ne avesse la possibilità, perché lasciare una squadra dopo aver riportato la Coppa dei Campioni, soprattutto con il significato che quella Coppa ha per gli juventini, sarebbe un trionfo probabilmente. Quasi gli perdonerebbero l'addio, come poi tutto sommato in parte gli interisti perdonarono a Mourinho. Se questo è, io non credo che sia destabilizzante in questo momento. Ma poi la faccia della destabilizzazione, hai visto come ha giocato ieri sera la Juventus contro la Lazio, cioè se è destabilizzata così passa il turno con la Fiorentina in Coppa Italia, poi batte il Monaco, poi c'è la Lazio. Sì, sta passando questo messaggio tra i tifosi, se la Juventus è destabilizzata, c'è l'interesse a destabilizzare chissà la Juventus. Se non fosse destabilizzata cosa farebbe, no? No, infatti non mi sembra che siano destabilizzati e non mi sembra che sia destabilizzata la squadra. Chi potrebbe essere destabilizzato è Beppe Marotta e con Fabio Paratici, perché giustamente se a giugno si ritrovano a dover sostituire Tevez, si ritrovano con una bella gatta da pelare, perché effettivamente diventa poi complicato avere Tevez e non averlo, perché hai ragione quando dici che Tevez poi lo devono pagare, ma il Boca purtroppo non credo che abbia i soldi che potrebbe valere Tevez in questo momento sul mercato, quindi io credo che poi alla fine tra la Juve, Tevez e il Boca ci dovrà essere un accordo tra gentiluomini. Io credo che la Juve possa pretendere in contanti davvero poco, che si possano mettere d'accordo su certi giovani che magari il Boca può immolare sull'altare del ritorno di Tevez, ma non credete di poter scucire dal Boca Junior? Ci accontenteremo di evitare la minusvalenza bilancio, sono 5-6 milioni di euro, però attenzione, la Juventus è un SPA, non è un ente di beneficenza. Ci mancherebbe questo altro. Bisogna anche dirlo, perché poi a me piace molto il clima di Violini con Marotta che dice rispetteremo la volontà del giocatore, Carlos è un professionista, il signor Carlos Tevez, se anche diciamo in tempi ragionevoli fa capire, non a me Carlo Genta, ma lo sanno già, ma ci sta già lavorando, dai, al di là della soluzione economica, secondo me al di là delle parole io credo che sappiano già tutto. Una società organizzata come la Juventus, se non c'è nessuno organizzato come la Juventus, io credo che stiano già lavorando su queste, ipotesi. Un paracadute lo stanno indossando, ma sicuramente poi magari non è detto che debbano tirare la linguetta, ma intanto io credo che sia Marotta che Paratici stiano lavorando per mettersi addosso un paracadute, e quando al momento che riterrà opportuno Tevez punterà i piedi e farà in modo di finire al Boca Junior, loro potranno tirare la linguetta e il paracadute si aprirà con la faccia di Cavani, con la faccia di Falcao, con la faccia di uno di questi giocatori i cui nomi stanno circolando in questo periodo e non stanno circolando a caso. No, assolutamente. Ti chiedo ancora un minuto, perché poi voglio portarti a Madrid e da lì chiederti una risposta sulla Champions League. Traffico. Quando io tomo una decisione sono lo tifosi in prima a sapere la mia decisione, no? Por respeto a lo tifosi, al club, a toda la gente, no? Che me voglio bene. Convocati. Tra un istante vediamo anche l'aggiornamento del Gran Premio del Bahrain, poi le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. Prima però volevo portare Guido Vacciago a Madrid, dove Modric ha finito la stagione, Bale salterà la trasferta, il ritorno insomma con l'Atletico Madrid, c'è qualche scricchiolio l'abbiamo visto anche nel Bayern Monaco. Non lo so, Guido, si può fare qualche pensiero sulla Champions e la Juventus? Secondo me sì. Ora, per me la Juve ha il 10, massimo 15% di possibilità di vincere questa Champions League, quindi poche, tutto sommato. Però se mi avessero fatto questa domanda all'inizio dei gironi, io ti avrei detto zero. Quindi mi sembra già che un piccolo miracolo questa squadra e questo allenatore l'abbiano compiuti. Perché arrivare ai quarti di finale, a un passo dalle semifinali, diciamo così, comunque insomma le semifinali si possono vedere, sono a portata di mano, e dire che tutto sommato ci sono delle possibilità, un po' per come sta girando la Champions, con alcune squadre che venivano considerate insuperabili, che invece si sono dimostrate quantomeno superabili o con determinate circostanze superabili, vedi il Real Madrid bloccato dall'Atletico o il Bayern che si è sciolto col Porto. Esattamente, poi bisogna vedere se poi il Bayern al ritorno gliene piazza 7 come ha fatto con la Roma. E siamo, può anche siamo essere, però significa che è battibile. Significa che è battibile. Io mi rifiuto di pensare che la Juventus sia meno forte del Porto, se mai in una semifinale dovesse incrociare il Bayern Monaco. In una semifinale piuttosto che in una finale. Quindi io ti dico, secondo me in questo momento la Juve deve pensare di avere delle possibilità di alzare quella coppa. Non sono tante, perché poi alla fine cerchiamo di rimanere coi piedi per terra e di guardare la realtà. Non sono tante perché il Bayern Monaco, perché il Real Madrid sono sicuramente più forti della Juve, però abbiamo visto che le cose stanno andando in un certo modo e quindi la Juve deve concretamente pensarci. E sì, quindi può succedere che se con una serie di situazioni favorevoli, perché bisogna sperare in questo, non è? Sì, la Champions è la manifestazione, la Coppa è il trofeo dei dettagli, più che mai è vero, perché poi se ti trovi al posto giusto, al momento giusto, la Coppa puoi anche vincerla. Ciao Guido. Ciao a tutti, grazie Guido Vaciago. Napoli che gioca con Higuaín davanti, Insigne e Calle con Amsic, quindi stanno fuori Gabbiadini e Mertens. Gianni da Milano, 800 24 00 24. Gianni, salve, buongiorno. Proprio una battuta al volo sul Milan, cambio un attimino argomento. Parlavate prima di Inzaghi, confermato o meno. La mia considerazione, poi insomma, se potevate dire qualcosa anche voi, sul fatto che Inzaghi, Seedorf, Allegri possono fare tutti i cambi che vogliono. Il punto secondo me è che il Milan, proprio come società, non è più al centro dell'interesse imprenditoriale del gruppo. Questo è, non ci sono investimenti, si parla di Inzaghi moltissimo, ma nessuno dice che oggettivamente i giocatori sono quello che sono da 2-3 anni a sta parte. Sì, mi sembra che da tempo il Milan non sia più al centro degli interessi di Berlusconi e della Fininvest. Ma infatti sono dettagli quelli relativi all'allenatore, cioè secondo me è tutto un gran chiacchiericcio, un grande fumo. Cioè il quesito vero è cosa succederà da qui a maggio, quando verranno prese delle decisioni sul piano societario. Prima si diceva il campionato ha bisogno delle milanesi, però le milanesi all'orizzonte non si vedono e non si vedranno ancora per un pezzo, cinesi permettendo, Toir permettendo, UEFA permettendo, salary cap permettendo un sacco di cose. La verità è che le milanesi non saranno competitive nemmeno il prossimo anno, rebus extantibus, cioè se le cose rimarranno così, stando così le cose. Giuseppe da Varese, Giuseppe. Sì, più che Giuseppe da Varese sono Peppino da Avellino. Oggi era Varese. Peppino da Avellino, qui ci scrivono Giuseppe da Varese. No, è Giuseppe da Varese, sta tornando ad Avellino. Prego. Quindi no, immagino volevo... interessato a Varese Avellino, sei sì, stato allo stadio, sì. Il mio un intervento più che campanilistico, per dire che l'Avellino ieri avrebbe potuto fare ricorso su quella partita e vincere 3-0 a tavolino, ma ha preferito giocare e magari perdere due punti oggi che erano importanti per la lotta promozione. Faccio i complimenti a voi per la trasmissione che avete. Sì, grazie. Grazie Peppino. Io invece faccio i complimenti ad Abodi, presidente della Lega di Serie B, che ha cercato in tutti i modi di dare un senso di normalità dopo la folle giornata di ieri, e lo posso testimoniare personalmente perché lui addirittura ha cercato di farla giocare ieri pomeriggio la partita, proprio per dare il segno che non c'era nessuno che poteva prevaricare gli altri. Mi fate sentire Garcia, che ha parlato anche della curva chiusa, così chiudiamo il cerchio. Garcia. Non è neanche il momento di fare un bilancio, lo faremo a fine stagione, ma non sono deluso per niente, sono arrabbiato, è totalmente differente. Ma giocare col pubblico detto, contro Garcia a Roma? Ma non c'era la curva sud questa sera, di che parliamo? Era sospeso dalla giudizia sportiva del calcio italiano, c'è niente da dire di più, concentriamoci adesso sull'Inter perché sarà facile fare una migliore gara. No, in realtà di cose da dire ce ne sarebbero, eh. Quindi registriamo che al 16° giorno il signor Rudy Garcia, che ci insegna calcio dalla Francia, scusa, io sono indignato, ancora non ci ha raccontato cosa ne pensa di Cori e Striscioni. Ma non lo racconterà mai. E che ne so io, altri l'hanno fatto, Pallotta l'ha fatto, perché non può farlo il signor Garcia? 800 24 00. Perché non ha nessun interesse a farlo. Facciamo l'aggiornamento della Formula 1, che così capiamo. Aspetta. Sì, desidero ringraziare molto il presidente Squinzi per l'invito così cortese che mi ha rivolto, concedendomi la possibilità di condividere la mia orgogliosa soddisfazione a Reti Unificate su Radio 24, Radio 24, sì. Radio 24. Presidente Mattarella, siamo orgogliosi anche noi, seconda settimana di fila che interviene, a tutti i convocati, ben trovato. Per cosa è soddisfatto però? Desidero esprimere vivo gradimento per la splendida affermazione della scuderia di Maranello sul tortuoso Presidente, la gara è ancora in corso, anzi diamo l'aggiornamento. Carlo, hanno corso 31 giri, ce ne sono 57 da percorrere. Presidente, la Ferrari non ha vinto ma è seconda e terza e quarta. A Raikkonen, dietro allora, a Hamilton e Rosberg. E allora desidero esprimere a Reti Unificate su Radio 24, Radio 24 e Radio 24 il gioioso gradimento di tutti gli italiani per la prestazione vittoriosa della scuderia Ducati e di Valentino Rossi. La verità, la gara è alle 9 stasera, poi Valentino Rossi non corre per la Ducati, ma fa niente, insomma. E allora desidero salutarvi e ringraziare il vostro presidente Squinzi, con cui intrattengo relazioni. Però torni settimana prossima, magari aspettando la fine delle gare. Torni, noi torniamo dopo il GR. Torneremo. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, se becchiamo fra poco, Tutti convocati. Dell'anno, quest'anno sono particolarmente importanti perché siamo alla pari come punti. Chi vince è praticamente fuori dalla crisi, chi perde sta dentro pieno nella crisi perché il paragone è con l'altra squadra che è riuscita a vincere. Presidente, quando viene qui fa la differenza per il suo carisma, per la sua voglia, per le sue parole. Con me è sempre stato, è stato come sempre prodigo di consigli e di affettuosità, per cui io sono molto stimolato da lui, ma insomma è tutto l'ambiente Milan che mi stimola tutti i giorni. Non ho bisogno di dimostrazioni d'affetto. Io ho iniziato a allenare il Milan perché voglio tornare a vedere un Milan protagonista e a vincere. Comunque è una partita importante, è chiaro che rispetto agli anni passati è un derby più povero, perché tutte e due le squadre non attraversano un grandissimo momento, però credo che almeno per quello che ci riguardi, credo che debba essere comunque la base per un grande rilancio. Non so se tu hai visto la luce, Carlo Genta. Berlusconi spera di vederla questa sera. No, io la luce a Milano non la vedo da un pezzo, Giovanni, al di là del fatto che oggi è una bellissima giornata e c'è il sole, ma luce o non luce rimane il derby dei poveri. Sì, però con, ripeto, almeno uno strapuntino sull'Europa dopo i risultati tra ieri sera e oggi pomeriggio. Rapidamente, decimo minuto, 0-0 Cagliari-Napoli. Intanto saluto Fulvio Colovati. Ciao Fulvio. Ciao Fulvio. Ciao Carlo. Ciao. Hai visto la luce anche tu? No. Ho visto? Hai visto la luce? Come Berlusconi ha visto la luce. Ma preferisco non rispondere. Perché questo pessimismo? No, fa piacere quando il presidente viene, però insomma, la legge del campo è un'altra cosa. Sulle parole. Le parole volano, il campo, i 90 minuti del campo sono un'altra cosa. Io mi auguro che le parole di Berlusconi siano o anche di Inzaghi siano siano sagge e nello stesso tempo portino fortuna al Milan, però francamente non è che sono pessimista al Milan, sono deluso da questo derby, tra la nona e la decima in classifica, in realtà è questo. Anche se qualcosa si è riaperto con i risultati delle due genovesi, con il Toro che ha pareggiato a Reggio Emilia col Sassuolo. Ma sei sempre lì che stai a aspettare i risultati delle altre, devi pensare a te stesso, come ti esprimi, al modo in cui giochi, a far punti. Francamente io capisco sotto certi aspetti la delusione, per quello non mi illudo, la delusione dei tifosi, non mi illudo, cioè, non sei fuori dalla crisi, vinci la stracittadina, ti accontenti, campionato fa 7-8 partite, finito. Sì, è un po' da provinciali, dici, limitarsi a dire vinciamo il derby che la stagione è salvata. Ma è da provinciale, no, ma hai ragione, ma perché è il discorso che facevano la Roma e la Lazio. Esatto. Esattamente 20 anni fa, cioè lo strapotere della cittadina, quando invece a Milano si lottava per il primo e il secondo posto. Sì, ma sai cosa? Sei lì ad aspettare i risultati non del Barcellona e del Real Madrid, ma della Sampdoria, della Fiorentina, del Genoa e del Torino, sì, hai capito? No, della Fiorentina, del Torino dello stesso Genoa e della Sampdoria. Esatto. Ma il fatto è che, luce o non luce, non è che si veda un grande futuro, al di là della partita di questa sera, non è che dici vabbè, adesso paghiamo sto dazio, giochiamo sto derby, arriviamo comunque vada alla fine della stagione, poi l'anno prossimo abbiamo delle chance di vedere una grande Milano. Avremo la chance di vedere la luce. Sai, poi queste parole qua di Berlusconi, beh, è chiaro che da dire che cosa poteva dire, però ma ha perso un po' del suo fascino carismatico adesso, diciamo la verità, è la 21esima volta credo che in questa stagione che va a Milanello, abbiamo visto di tutto, i pipurrà, pronostici sulla possibilità per il Milan di essere la squadra migliore del 2015, poi insomma tutto puntualmente smentito dal campo. Ma se scontra, allora che vada a Milanello fa piacere, ma fa piacere all'allenatore, ti posso garantire, fa piacere al giocatore. Detto questo, questa sua visita è una visita di relazione, perché si scontra con quella che è l'affettiva realtà, che tu vuol vendere. Vuol vendere e forse il Milan è già venduto. Per cui capisci che non puoi parlare di futuro, parli di situazione momentanea, quello che dicevamo prima, di strapotere della nostra Milano, poi tutto finisce lì. Per cui il futuro del Milan deve essere, come diceva Carlo, futuro internazionale deve essere in alto spessore che quello attuale. Posso essere un po' velenoso, ma è meglio Berlusconi che va così di maniera Milanello, o una vigilia come quella dell'Inter dove Moratti da piano non va più, Toir è sbarcato questa mattina alla Malpensa, ma Moratti non, ma vabbè, Moratti ormai ha una percentuale nell'Inter, ma chi rappresenta l'Inter in questo momento è Toir. La realtà è questa, per cui le aspettative sono ben, soprattutto poi anche da parte dei Mancini, le aspettative erano altre, anche se abbiamo, se devo dire, non siamo, abbiamo espressi in modo abbastanza negativo nei confronti del Milan, figuriamoci che vinta, con un allenatore esperto in tutto, era doveroso aspettarsi. Sì, mi sembra che Mancini e Inzaghi facciano a gara a chi sta deludendo di più. Fulvio, ti chiedo un minuto di pazienza, la chiedo anche a Giulio dalla provincia di Modena. Abbiamo il traffico, cerchiamo anche di ripristinare il collegamento che non è perfetto con Fulvio Collovati. 800 24 00. Penso che il più bel regalo che possiamo fare al nostro presidente è giocare un bel derby e dedicargli una vittoria. Convocati. Sempre 0-0 Cagliari-Napoli, credo sempre Trenini anche in Bahrain, Formula 1. Sì, con la differenza che c'è Bottas che si è infilato davanti a Vettel che è quarto, Rosberg è terzo, primo Hamilton, secondo, secondo Rosberg. Sì, non la miglior Ferrari della stagione, tanto saluto Franco Ordine e Fabrizio Biasin che ci hanno raggiunto di strada verso San Siro, ciao. Ciao ragazzi, buonasera. Che piacere. Che piacere, poi avremo tempo fino alle 19 per chiacchierare su questo derby. Oh, per chiudere con Fulvio Collovati, da Fulvio io volevo sapere secondo lui chi sta peggio oggi tra Milan e Inter. Ma considerate le assenze, forse l'Inter, però non mi chiedere, però non mi chiedere pronostico, perché ripeto, tra la nona e la decima classifica ha poco senso. Non, tu passeresti direttamente a domani, senso. Io ho capito. Non te lo saprei dire. No, Fulvio, io volevo chiederti invece ancora una cosa: ti è mai capitato nella tua lunga carriera da giocatore di doverti inchinare davanti agli ultra? Assolutamente no. Ah. Assolutamente no. Ma per mille motivi, per questioni caratteriali mie, per questioni evidentemente, che ne so, perché non abbiamo sempre avuto un rapporto di reciproco rispetto, ma mai di tale vicinanza. E non c'era, questo clima. Voglio essere chiaro. Non c'era questo clima. No, non c'era, ma ormai è un'epidemia. Purtroppo. Aspettate che facciamo finire Fulvio. Una volta, i presidenti di una volta... Non lo so, non voglio, ma li tenevano, forse non so, non hanno preso più potere, ma li tenevano ben distanza. E ti posso garantire che magari Franco Ordine lo può testimoniare. Io ho fatto parte di un Milan che è anche retrocesso, però ti posso garantire che gli ultra non sono mai venuti a Milanello contestarci, nonostante una retrocessione. Sì, erano credo altri tempi. Erano sempre tenuti a distanza, non riesco a capire mai questo. Noi del resto ci stiamo abituando. Io non è che ce l'ho con Garcia, ma ci stiamo abituando a un allenatore che al 16° giorno, ancora oggi, non ci ha detto che cosa pensa del comportamento della sua curva. Quindi, se noi ci abituiamo, va tutto bene. Noi invece lo sottolineiamo e quindi ve lo diciamo: 16° giorno, anche oggi non abbiamo sentito nulla. Grazie, Fulvio. Sono d'accordo con te. Buongiorno a tutti voi, buon lavoro. Ciao. Grazie a Fulvio, dobbiamo abituarci. No, Fabrizio? Ma guarda, il problema degli ultra c'è stato e ci sarà. C'è un altro problema che è nuovo, che è quello dei presidenti che tacciono, perché a parte Lotito, che fa la sua personalissima battaglia da 10 anni, e Pallotta, che è entrato a far parte del club, non ho sentito parole di solidarietà da parte di nessuno. E non le sentirai neanche. Questa cosa secondo me è molto grave. Cioè, nelle ultime 48 ore abbiamo visto Varese, Cagliari, la contestazione nei confronti di Pallotta, Terni, e tutti tacciono. E allora a questo punto si dà manforte a quelli che vogliono fare queste cose. Io al club aggiungerei anche la Juventus, però. Sì, Juventus abbiamo letto, ma poi insomma basta frequentare lo Juventus Stadium per sapere che ci sono alcuni sistemi che in quello stadio ci sono, altrove no. Ci sono state alcune scelte negli ultimi mesi che altrove evidentemente ancora non vengono fatte. Noi aspettiamo e raccontiamo. Giulio alla provincia di Modena, che è qualche minuto che ci aspetta. Giulio. Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Io vi chiamavo anche per un accenno al derby. Io sono tifoso milanista, però chiaramente depresso è un eufemismo, insomma, da questo punto di vista, ecco. Quindi però ho la fortuna di essere, noi abbiamo messo John Belushi apposta per provare a tirarci su, non ce la facciamo, no? Non c'è verso. No, per fortunatamente io sono di Carpi, vi ho chiamato circa 2 mesi e mezzo fa, dopo i 4 pareggi che il Carpi fece in quel periodo. Direi che adesso è praticamente fatta, insomma, e al di là dell'aspetto tifoso mio, così, credo che Carpi, con una gestione societaria che è costata 4 milioni e mezzo in tutta una stagione di Serie B, sia un grande esempio di come si possa fare calcio con le idee e non solo con i quattrini, ecco, tutto sì, qua. Sottoscriviamo, al netto che poi un campionato con 20 Carpi, adesso non per parafrasare Lotito, ma difficilmente potrebbe stare in piedi. Però detto questo, Giulio, siamo contentissimi dall'anno prossimo di raccontare del Carpi in Serie A, questo per evitare ogni tipo di fraintendimento. Oh, come la mettiamo invece con il derby? Franco Ordine, Fabrizio Biasin, intanto avete qualche ultima? Ad esempio, gioca Gnucuri o no? Pare proprio di sì, anche se la formazione non è ufficiale, diciamo che dovrebbe essere confermato il centrocampo con il ragazzino che dopo i 12 minuti dell'esordio è titolare in questo derby. Io francamente non l'avrei schierato, però evidentemente Mancini ha idee diverse. Ma Mancini è coraggioso o temerario? Secondo me è coraggioso, perché a questo punto ha poco da perdere, avendo due giocatori come Guarin e Brozovic squalificati, e capire se questo ragazzo ha lo spessore per poter partecipare all'Inter dell'anno 21. Questa è l'occasione più unica che rara. Sì, ci sono anche prove un attimino meno impegnative di un derby per debuttare dal primo minuto. Però solitamente quando vuoi abituare un bambino a non avere problemi con l'acqua, lo devi buttare quando c'ha 3 mesi. Però è anche vero che se gioca il ragazzino vuol dire che qualcun altro sta fuori. Sì. E allora io voglio capire chi sta fuori tra Kovacic, Shaqiri, Hernanes, insomma chi resta a guardare finisce sul banco di quelli che forse l'anno prossimo non faranno parte del progetto. Sì, aspetta che saluto intanto Pier Pardo. Ciao, mi ricorda Saponara, sì. Cioè l'episodio Saponara di un anno e mezzo fa con Allegri, quel derby poi vinto dal tracco di Palacio. Ma Saponara gioca bene. E sono d'accordo. Sì, però Saponara era un giocatore fatto. Questo è un ragazzino della primavera. Fatto per l'Empoli, non fatto, ancora per il Milan. Aveva giocato in Serie B. Cioè, voglio dire, Gnucuri, sì. Stiamo parlando di un ragazzo che davvero inizia. Io posso dirti una cosa: io penso che Mancini l'ha anche criticato varie volte quest'anno, nel senso, secondo me, l'ha detto anche lui, non è riuscito a dare la svolta. Se si prende un rischio così dall'alto della sua esperienza, è perché si rende conto che il ragazzo ha qualità e ha la sfrontatezza. Poi sai, tante volte io ti faccio un esempio di uno che conosco molto bene, che è Cassano, tanto per fare un nome, no? Che è uno che negli anni, secondo me, è diventato complessivamente più continuo come rendimento. Però con il passare degli anni, con diventare un pochino più responsabile, padre di famiglia, ha perso un po' di sfrontatezza e certe volte, secondo me, il pallone gli scottava di più da adulto che da ragazzo. Ha segnato il Napoli, Caleon, 24esimo minuto, Cagliari 0, Napoli 1, palla filtrante, Caleon solo davanti al portiere, gioco da ragazzi, metterla al palo. Prego, Pier. No, e quindi, capito, poi alla fine tante volte i giocatori giovani, noi siamo lì a pensare, sentiranno la pressione, ci sono dei giocatori giovani che la pressione non la sentono per niente perché sono incoscienti, quindi non so se è questo il caso, lo scopriremo stasera. Solo diretto, sì. Però insomma, poi, si prende questo è anche legittimo il dubbio, insomma, di che cosa fare di Kovacic, Hernanes o Shaqiri, chi dovrà far posto a centrocampo a un ragazzo della quello primavera. È un altro discorso, ma a prescindere da stasera, cioè è chiaro che nel centrocampo dell'Inter ci sono dei giocatori che sono cresciuti molto con Mancini, ad esempio Guarin sicuramente ha lanciato dei segnali molto importanti, altri che sono andati in difficoltà. Come Kovacic, come lo stesso Hernanes, che pure ha giocato molto bene a Verona contro il Chievo, sicuramente ci sono dei giocatori che sono un punto interrogativo per la prossima stagione, ma questo indipendentemente da stasera, da chi giocherà stasera. Sì, Franco, però fosse stato un derby all'altezza, magari non avremmo fatto questi discorsi. No. La verità è che è il derby dei disperati. Sì, insomma, è il derby di, comunque nel caso dell'Inter c'è una giustificazione di fondo determinata dalle due squalifiche, quella di Brozovic e di Guarin. Obiettivamente il Milan è messo meglio da questo punto di vista perché l'unico, diciamo, di quelli fuori è importante, è Montolivo, per cui è evidente che c'è anche questo. Però io penso che al di là del fatto del ragazzo di 19 anni, io penso anche che poi bisognerà prima o poi rompere questa tradizione secondo la quale se non sei straniero, se non hai fatto almeno 300 partite in Serie A, non sei in grado di giocare una sfida importante, decisiva, tradizionale come quella del derby. Bisognerà abbattere questo muro, questo tabù. Però è anche vero che se fosse stato un derby vecchi tempi, probabilmente Guarin e Brozovic stavano a riposo nella partita di Verona e stasera li vedevamo in campo. La verità è che non sono stati fatti i calcoli perché la classifica è quella che è. Guarin e Brozovic probabilmente forse neanche giocavano, quelli che facevano riposare i titolari a Verona, con tutto il rispetto per Guarin d'accordissimo. E Brozovic, poi non mi avete ancora detto se Kovacic ad esempio fa ancora parte del progetto dell'Inter, se è un talento, se è un errore compreso il suo rinnovo, non lo so io che pensiero avete. In questo momento obiettivamente mi sembra più in discussione Shaqiri critiche Kovacic, perché è vero che Kovacic, che comunque viene considerato da Stramaccioni, poi da Mazzarri e quindi da Mancini, uno su cui investire cambia tante volte ruolo e posizione, così da probabilmente non sapere più nemmeno lui dove trovare la bussola più precisa. Però è vero anche che qui, se stasera dovesse toccare a Shaqiri restare ancora una volta fuori, mi pare che questo diventi la bocciatura obiettivamente più clamorosa della serata. Infatti io starei molto attento alla formazione ufficiosa, perché secondo me sarà diversa da quella ufficiale. Però vediamo, anche perché Shaqiri lo devi ancora pagare, 15 milioni li devi mettere sul piatto. Kovacic invece l'hai già pagato, è tuo, e vedremo cosa succederà sul mercato. Sì, Shaqiri lo devi ancora pagare, ma lo devi pagare, perché non c'è la possibilità di rimandarlo a Monaco. Per forza di cose sarà parte del progetto l'anno prossimo. Ammesso e non concesso. 800-24-00-24, 27 minuti, Napoli avanti 1-0, meraviglioso l'assist, credo, di Hamsik, che ha messo Calleon davanti al portiere. Formula 1, Carlo? Formula 1, Hamilton, Rosberg, Raikkonen, e poi c'è Bottas che continua a tenere dietro Vettel. Mancano 6 giri alla fine. Sì, una mezza doccia gelata. Torniamo subito. Tutti convocati. Io credo che i giocatori lo sentono il derby così come sentono le partite importanti. Credo che una volta fosse diverso, perché comunque, essendo noi tutti italiani e vivendo l'atmosfera dei derby tutti i giorni, c'era molta più tensione, penso, rispetto ad oggi. Insomma, oggi il fatto che giochi talmente tante partite tutte ravvicinate forse non ti dà neanche questa possibilità di soffrire la sofferenza buona che c'è prima di una partita, ecco, la notte prima della partita. Derby salva la stagione, la fa più bella, che cosa? Ma no, non mi piacciono queste cose. Noi dobbiamo vincere il derby perché è una partita che è molto importante per Milano, e sappiamo che valore ha per i nostri tifosi, per cui, e anche perché penso che questa squadra abbia bisogno di una partita importante fatta molto bene. Che voto daresti a questo lasso di tempo che è passato da un derby all'altro? Sinceramente speravo che oggi l'Inter fosse molto più in alto e che giocasse per potesse ancora giocare per un titolo. Quindi, al di là, credo, delle cose positive che ci sono state, a tratti il voto è, cioè, ho dato forse un voto che non mi piace, ma comunque è un voto negativo. I derby sono una partita a sé, che è da vincere per noi stessi, per il nostro presidente e per i nostri tifosi. I derby non si giocano, come ho sentito dire, ma si vincono. Ha visto la luce! Pierre, hai visto anche tu la luce, come il presidente Silvio Berlusconi? No, non l'ho vista, penso che sia... Ma noi stiamo cercando qualcuno che ha visto la luce. Se avete visto la luce, ci chiamate 800-24-00-24. Vedo, forse Franco Ordine ha visto la luce. Io l'ho vista a Wolfsburg l'altro giorno, la luce del calcio italiano. Che... Io la luce, per fortuna, l'ho vista negli anni passati col presidente Berlusconi, ma devo dire che il presidente dice sostiene questo nel caso di una vittoria. Obiettivamente, per come sono messe stasera Inter e Milan, chi dovesse vincere obiettivamente passa più di qualche giorno, passa miglior vita. Sì. Tra l'altro, ricordiamoci che esattamente settimana scorsa a San Siro è mancata la luce, per cui non è proprio l'indicazione. No, dai. Sicuramente il pareggio, l'absus freudiano della Samp rende la partita di stasera ancora interessante, anche in ma anche la sconfitta del Genoa, il pareggio del Toro. Sì, il pareggio del Toro, insomma, diciamo, non si è alzata la quota Europa League, e quindi, secondo me, chi vince stasera, ovviamente, soprattutto se dovesse essere il Milan che ha un punto in più, tornerebbe potenzialmente in corsa. Detto questo, io credo e temo che possa essere anche un po' la partita della paura, nel senso che insomma, ci sono altre città, a Milano è successo poco, ma ci sono altre città, spesso Genova, qualche volta Roma, fino a nei periodi difficili nelle quali il derby spesso era il motivo che valeva l'intera stagione, perché non c'era altro, quindi si giocava per quelle due partite. Spesso poi il pareggio era una specie di conseguenza, era una sorta di quieto vivere perché dai, niente di addobbato. Io penso, non so però... se siete d'accordo, che Mancini possa permettersi tutto tranne che un derby giocato come l'ultimo di Mazzarri l'anno scorso, che segnò la rottura definitiva al di là della questione Zanetti tra Mazzarri e il popolo interista, no Piero? Io temo che sia più la paura di perdere che la voglia di vincerlo questo derby, temo, poi le partite sono strane, magari c'è un episodio, un gol nei primi 10 minuti, la partita si apre e diventa bellissima, però se la guardo razionalmente dall'esterno mi sembra che è chiaro che tutte e due vincendo razzizzerebbero un pezzettino di stagione, ma perdendo il derby domani insomma ci sarebbe proprio la contestazione da una parte e dall'altra, sì, molto molto pesante, quindi secondo me è una partita che alla fine se finisse in parità non creerebbe ulteriori fastidi a queste due squadre, se non ovviamente confermare la formazione. Che sta succedendo di tutto, tra l'altro in Bahrain, sta succedendo di tutto, siamo nell'ultimo giro, c'è Raikkonen secondo. Sì, Raikkonen secondo ha superato Rosberg ha fatto si è superato da solo Rosberg, è andato lungo ma l'ha messo sotto pressione, ha fatto una grandissima gara, mentre Vettel è quinto, si è sbagliato. Vettel quinto, Raikkonen secondo. La stessa secondo. Curva che aveva sbagliato prima Vettel all'inizio, quando era stato superato proprio da Rosberg. Quindi possiamo certificare che Raikkonen è tornato un pilota a tutti gli effetti, siamo nell'ultimo giro. Adesso restiamo qui che probabilmente prendiamo anche l'arrivo. Stavi dicendo, Pier, scusami. No, stavo dicendo che insomma ho questa paura qui, che la paura possa condizionare questa partita, perché mi sembra che tutte e due rischino di più perdendo di quello che possono ottenere vincendo. Sì, voglio chiedere a Franco Ordine, a me sembra, se la formazione sarà confermata, quella del Milan, non mi sembra una squadra che vuole rischiare tanto. Falso 9, Menez, falso 9, senza prima punta. Sì, però se gioca... Suso anziché Honda, e se gioca Alex anziché Paletta, vuol dire intanto che ci sono due mosse a sorpresa da parte dell'allenatore, e vuol dire che insomma tenta di fare di conservare la gamba fresca di questo ragazzo, insomma di sorprendere, perché si aspettavano tutti, oggi i giornali tranne due, Corriere della Sera e il Giornale, hanno la formazione con Honda, sì, anche se la frase di ieri di Pippo Inzaghi avverte ancora un po' di dolore quando calcia forte, faceva prevedere che non sarebbe partito. Sì, che potevano esserci dei problemi. Siamo alle ultime curve, proviamo a sentire dai microfoni di Sky la Formula 1 in Bahrain. Adesso ha ripreso, sta gestendo questo ultimo giro Lewis Hamilton, o ha qualche problema? Hamilton è praticamente fermo, ancora fa questi S un po'. Raikkonen è là dietro, ma sono gli ultimi metri di tensione per questi movimenti, per questo messaggio che è arrivato sul volante di Lewis Hamilton. Hamilton che sta arrivando lì per prendersi la bandiera a scacchi e per prendersi, che è quasi fermo ma conserva un discreto margine su Raikkonen. È davvero una gara incredibile, Carlo, poi penso ci sarà modo da domani di analizzarla, perché non abbiamo visto la miglior Ferrari, ma alla fine tiriamo fuori secondo posto di Raikkonen, semmai un po' delusi per quello che ha combinato Vettel, che è quasi a un minuto dalle Mercedes. Eccolo lì, ha vinto Hamilton, secondo posto per Raikkonen, terzo Rosberg e poi tutti gli altri, Bottas quarto, Vettel quinto. Questo è il risultato del Gran Premio del Bahrain. 800 24 00 24, Paolo da Milano. Paolo, sì, buonasera a tutti. Eccoci. Volevo parlare di Inter Milan. Sì. Io secondo me, cioè, le condizioni in cui si trovano queste due squadre non sono dovute a, diciamo, quelle economiche, dico, non sono dovute a un destino cinico e barra, il fatto che loro hanno un debito, sia Inter e Milan, un debito che io avevo letto sul Corriere di qualche mese fa di essere di circa 300 milioni l'una, e il Milan aveva anche più di 256 milioni, il Milan, poi aspettiamo il nuovo bilancio che arriva, ecco, tra un paio di settimane. Sottostare l'Inter e siamo oltre. Per esempio, sotto questo profilo, l'operazione Tohir, ma a me sembra strana, che non so se voi me la potete spiegare, nel senso che un uomo d'affari viene dall'Indonesia, compra una squadra con 300 milioni di debito, poi per le norme sul fair play non riesce neanche a investire, e da questo punto di vista anche se si comprasse il Milan, secondo me i tifosi devono badare che poi ripiani il debito, perché se si compra la squadra, come ha fatto Tohir, senza ripianarlo, si rimane in una sorta di coma come dire, di stato comatoso, è una squadra che non può investire. Adesso per esempio l'Inter ha provato a comprare Shaqiri, che non è neanche pagato, pare che gli arrivi una multa. Quindi io non ho la multa su Shaqiri non arriva, la multa arriva perché i conti non sono in ordine, e poi vedremo che tipo di sanzione sarà, perché dipende anche se l'Inter farà o no le coppe il prossimo anno. Però il tema che arrivi a Milano, in questo caso Sponda Milan, qualcuno che ha dei soldi da investire, è un tema che secondo me è un tema importante d'attualità. Ed è sicuramente un tema del quale hanno parlato anche ieri Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Io non penso che Silvio Berlusconi aprirà i cancelli di Milanello al primo che passa lì davanti. O si presenta qualcuno che offre garanzie concrete con aperture di linea di credito adeguate, e allora sarà sicuramente accolto con la fanfara. Se così non dovesse essere, credo che poi alla fine non se ne farà niente, oppure si farà un'operazione legata quasi esclusivamente al pacchetto di minoranza con l'eventuale opzione per la costruzione del nuovo stadio. Sì, però c'è un'inversione di tendenza chiara, c'è sempre parlato di questo pacchetto di minoranza, cioè trovare un socio minoritario, difficile vedere uno che arriva lì, ti porta i soldi e poi lascia comandare te. Adesso mi sembra che l'inversione di tendenza sia chiara, cioè si parla della cessione del Milan, questo è importante, no? Questo però se ne parla solo da una direzione, solo da una parte. Cioè ne parlano i trombettieri definiamolo così, della cordata thailandese. Il semplice fatto che non sia in gioco una sola persona, un solo magnate, un solo ricco uomo, ma che ci sia la necessità di dover ricorrere a una sorta di colletta di ricerca di investitori, fa capire che le dimensioni dell'operazione non sono tali da essere realizzate così velocemente, soprattutto alle condizioni delle quali si parla sui giornali in questi giorni. Pier, tu hai l'impressione che in questo discorso rientri anche l'ipotesi che alla fine Inzaghi resta? Cioè resta, anche perché in questo momento non si può toccare nulla, e lì si tratta nuova proprietà, maggioranza o minoranza, quello che è. Io non tu credo alla fine che Inzaghi lo tieni lì. Ma la premessa che ancora un pezzettino di stagione, e mi leggo al discorso che facevamo prima sul fatto che la Samp fa 20 palle gol ma non riesce a battere il Cesena, che il Torino ha tante occasioni ma non vince col Sassuolo, che il Genoa fa sempre un passo avanti e un passo indietro, quindi c'è ancora una possibilità di Europa League, che per come si è messa la stagione sarebbe un trionfo, perché se il Milan dovesse arrivare in Europa League ci sarebbe arrivato, come sì, sarebbe quasi un miracolo con un finale pazzesco, e quindi questo finale pazzesco potrebbe portare con sé un entusiasmo tale che potrebbe spingere alla riconferma di Inzaghi, ma veramente deve succedere un miracolo, perché sennò per il resto secondo me se arriva una nuova proprietà molto forte non credo che tenga Inzaghi. No, però c'è anche una questione di tempi, cioè anche immaginando che arrivi una proprietà nuova, stiamo parlando di qualche mese. Sì, ma se arriva uno nuovo vuole cambiare, se rimane questo presidente vuole cambiare, perché Inzaghi comunque quest'anno ha fatto delle cose, secondo me, pur con tutto l'affetto e il rispetto e l'amore reciproco che c'è fra lui e il Milan e la famiglia e tutto il resto, però Pier, scusami, deludente. Ma non ci sono i tempi tecnici perché uno nuovo arrivi in tempo per fare il mercato della prossima stagione? Quindi, due diligence finisce il 30 di aprile, esatto. Vuoi dargli almeno 10 giorni per preparare una proposta di... Ma stiamo parlando di settimane, altro che 10 giorni. Ma vado veloce, 10 giorni, quindi, poi un mese per decidere se accettare questo o no. Ma Berlusconi e cambia allenatore. Ma no, ma alla fine resta Inzaghi se fa un finale di stagione decente, certo. E nel 2016 sarà la prima vera stagione di questo ipotetico nuovo Milan. Non dimentichiamo che da qui a fine magari campionato, magari con Conte, che nel frattempo sarà libero. Non lo so. Da qui a fine campionato, obiettivamente, il Milan incontra il fior del campionato, derby a parte, deve incontrare la Roma, il Napoli fuori casa, deve incontrare la Fiorentina in casa, deve incontrare il Genoa col quale tu dici a modo di convincere Berlusconi di poter essere ancora ancora un uomo da Milan, Inzaghi. No, dico no, che di ha avversari con i quali non è pensabile di fare un filotto, non so, di 5-6 successi. Però detto questo, è già molto che rispetto a un mese fa davamo tutti per spacciato Inzaghi, adesso si ragiona su le poche possibilità che ha questo allenatore di essere confermato. Secondo me ha ragione Giovanni, in questo momento più che altro è congelato perché a monte ragionano su altre questioni. Sì, si pensa ad altro. C'è il traffico, poi torniamo. Ciao, sono Super Mario. Chi è che scrive queste cose? I giornali scrivono che sono il giocatore del campionato inglese più insultato sui social. A me non ne frega niente. Sporchi razzisti, tutta gente maleducata, figli di puttana, teste di c***o, pezzi di merda. Tutti convocati. Queste qualifiche è sempre un po' difficile. Abbiamo sbagliato strategicamente perché poi sono partito e mi sono trovato nel traffico. L'obiettivo era partire in seconda fila, si poteva fare, ecco. Partendo in terza diventa tutto un po' più difficile. Però la moto funziona molto bene con le gomme dure, e però dai, sembra che il passo non è male, quindi bisogna cercare di partire forte e fare il massimo. Perché c'è anche la MotoGP in questa domenica che finirà a ridosso di mezzanotte, finirà con la MotoGP, finirà con il derby di Milano. Un altro paio di notizie: l'Italia femminile che ha rimontato gli Stati Uniti 3-2 e quindi resta nel gruppo maggiore della Federation Cup. A proposito di tennis, appena finita la finale del torneo di Monte Carlo e ha vinto Djokovic 2-0 del Napoli. Intanto finito in questo momento il primo tempo a Cagliari, vi avevamo detto del gol di Calleona al 24esimo, c'è stato il raddoppio proprio negli ultimi secondi con un'autorete di Balzano, e tutti da vedere se avete sembra modo. Sembra che il Napoli stia trittando gli occhi dei giocatori Cagliari, del Cagliari, aveva ragione ieri Zeman, Franco, squadra assolutamente spaventata. Sì, ho visto sotto una squadra più che spaventata sotto shock, una squadra che mi sembra che abbia perso, insomma, confidenza anche con i famosi schemi d'attacco, perché ne ha realizzati soltanto un paio e senza riuscire però a spaventare la difesa del Napoli, che pure non è di quelle irresistibili. Sì, stando così le cose, vi leggo le ultime quattro della classifica: Atalanta 30, Cesena 23, Cagliari 21, Parma che oggi ha pareggiato ad Empoli sempre con grande dignità a quota 13. Mi sembra che anche la lotta per non retrocedere possa considerarsi finita. Pier, poi un giorno ragioneremo anche sull'utilità di quei raid, al di là del giudizio morale. Questa cosa mi piace moltissimo, in 20 secondi, perché lasciando perdere gli aspetti morali, gli aspetti penali, gli aspetti di ordine pubblico che abbiamo affrontato e che, insomma, sono chiaramente la parte più interessante, c'è proprio anche l'aspetto del beneficio. Il beneficio era la Roma oggi probabilmente con la curva sud che conosco io, che conosciamo tutti, quando tifa, quando è dalla parte della squadra, quando le dà una mano nei momenti difficili, è una grandissima curva capace di dare un'enorme spinta. Magari qualcosa in più avrebbe fatto, poi che la squadra stia facendo malissimo e possa essere contestata non ci sono dubbi, che i giocatori del Cagliari magari con un po' di effetto in più in questo momento magari qualcosina in più potevano fare. Capisco che il tifoso possa essere frustrato, ma qui sono degli atteggiamenti che finiscono proprio dal punto di vista strettamente dell'utilità, invece che dare una scossa, penso finiscono per acuire i problemi. Sì, no? Sì. Credo che stasera i tifosi del Milan sospenderanno il clima di protesta nei confronti della società del Milan. Insomma, mi pare di aver letto qualcosa, ammesso che si debbano leggere i comunicati delle curve. Ecco. Ma infatti è una delle cose, prima parlava Fulvio Collovati della differenza rispetto ai suoi tempi, io che purtroppo per la mia età ai suoi tempi c'ero, non ricordo di aver mai letto un comunicato della curva del Milan. No, però in mezzo a tante brutte notizie da parte dei tifosi e ultra, bisogna dire che quello di Milano è sempre stato un bel derby da questo punto di vista. Speriamo di non iettare. Vabbè. Speriamo di non portare male. C'è chi ci scrive: state parlando di cose di cui non sapete a proposito dei tifosi, tutti appecoronati dietro a Lotito. Noi abbiamo detto semplicemente che Lotito i giocatori appecoronati gira con la scorta anche per questo motivo, e cioè perché insomma ha deciso di fare un certo tipo di battaglia con i tifosi. Chi è? Buonasera. Oh, presidente, buonasera. Agli amici coesi e sì, molto positivi di tutti, sì, i convocati. Presidente, buongiorno, buonasera, anzi. Lei buonasera. È agitato per il derby, va, no, a San Siro? Posso, sì, posso invece asserire con assoluta tranquillità che sono sereno e una calma interiore che porterà anche la squadra alla luce. Sì, ma lei ha visto la luce? Ci tolga questa curiosità che ci stiamo interrogando da ieri. Proprio, ha visto la luce? Proprio così, sì. Sono in uno stato di grazia perché ho visto la luce. E com'è questa luce? Com'è? Posso dire con assoluta certezza che è la cosa più bella che abbia mai visto. Mistico, ha una forma mistico triangolare. No, presidente, un triangolo meraviglioso, no, da cui no, tutto nasce, non possiamo, e in cui possiamo, tutto no, si riveste. Non possiamo. Ma ho sentito delle voci in studio. Sì. Se mi avete portato di nuovo il comunista, c'è Sorrentino di Repubblica. No, non c'è oggi, c'è Franco Ordine, lo conosce Fabrizio Biasin, libero, no, un grande piacere. Certo, no, ma ci dica della interista, capita. Ci dica qualcosa ancora della luce, Capuano, sì, vuol dire anche divina provvidenza. Divina provvidenza. E io dico grazie. Sì. Addirittura, perché? Perché ci ha tolto dalle palle montane. Ma no! Ma non dica, poi la prendono anche per razzista, assolutamente magari, no, sa, un periodo e un po' così. Una dimostrazione. Faccio un complimento all'Inter. Oggi giocherà un ragazzino di colore dal cognome molto promettente. Gnoccuri. Si vede che è un predestinato. Alla gnocca. No, è ancora. No, presidente, arrivederci. Di così, Cripio. No, oggi veramente il nostro Andro Mercu. Dai, facciamo pronostico al volo. Come finisce questo derby? Non fate come Fulvio Colovati che era depresso. Dai, Franco. Ma anche perché i pronostici sono fatti per essere anche sbagliati. Io personalmente vedo un pareggiotto. Un pareggiotto? No, pareggiotto che non si direbbe nessuno. Questa sarebbe anche una notizia, perché se si apre quella piccola porticina sull'idea di inseguire l'Europa League. Io la chiuderei prima ancora di cominciare. La chiudi? sì, anch'io. Fabrizio. Tanti gol, uno in più per l'Inter. Uno in più per l'Inter, quindi vince l'Inter. Beh, tanti gol già sarebbero una bella notizia, Carlo. Pochi gol, vince l'Inter. Ma io invece credo anch'io che finisca con un pareggio, ma più che altro perché sono due squadre. Io faccio fatica, se dovessi mettermi insieme le due squadre a dire chi è meglio, chi è peggio, io farei fatica a tirarne fuori una di squadra competitiva. Cioè, qui manca proprio la qualità, Pier. Invece io dico 51-49 lo doppio al Milan, però penso che pareggeranno. Sì, insomma, ci fermiamo qui. Buon derby a tutti quelli che vanno a San Siro, quelli che lo vedono in televisione, quelli che fanno altro, che vedono la MotoGP. Noi torniamo domenica prossima alle ore 17, domani, ciao, dopo il GR domani delle 14. Carlo Genta per Luigi Pardo. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao. Nella gestione. E grazie, baci e pace bene a tutti.